perfetto giorno. Buona giornata, mancano pochi secondi alle 13:02, edizione del venerdì di Effetto Giorno. Una buona giornata da Enrico Pagliarini, Andrea Roccabella si occupa della parte tecnica, questi i nostri titoli. In tutto il mondo si preparano misure economiche per aiutare l'economia colpita dall'epidemia. Il governo italiano pronto a portare le risorse a 7,5 miliardi di euro per la Commissione europea, non serve una risposta immediata allo sforamento del deficit. Cresce in tutta Europa il numero dei contagiati da coronavirus, una nave da crociera con 64 italiani respinta in Thailandia, ma a bordo stanno tutti bene. Di nuovo un attentato in Afghanistan, decine i morti ad una cerimonia a Kabul, attacco suicida anche all'ambasciata americana a Tunisi. Il ciclismo italiano rinvia la Tirreno Adriatico e la Milano-Sanremo. Il calcio tenta il ritorno alla normalità. Bene, allora iniziamo dalla nostra ricca pagina sugli effetti e anche la situazione aggiornata del coronavirus. Partiamo dalle misure economiche che si stanno preparando in tutto il mondo per fronteggiare i danni all'economia. Dal Giappone agli Stati Uniti arrivano nuove misure e parleremo anche della situazione e delle intenzioni del governo italiano. La Camera del Congresso americana ha approvato uno stanziamento di 8 miliardi di dollari che passerà la prossima settimana al vaglio del Senato. Due giorni prima si era mossa la Fed, la banca centrale americana, con il taglio dei tassi di 0,5 punto percentuale, il più ampio dalla crisi del 2008. Il mondo si muove per fronteggiare l'emergenza coronavirus con il Fondo Monetario pronto a mettere sul piatto 50 miliardi. Da Tokyo, la banca centrale del Giappone si prepara a nuovi interventi, dopo quelli che saranno presentati il 10 marzo, per sostenere le aziende e i settori più colpiti, mentre i consumi delle famiglie a gennaio scendono per il quarto mese consecutivo. In Europa la BCE prenderà tutte le misure appropriate se necessario e ha chiesto alle banche di aggiornare le strategie d'emergenza. Anche l'Eurogruppo, dopo le rassicurazioni del G7, è pronto ad agire per sostenere la crescita con tutti i mezzi. Livia Zancanera, Radio 24, Il Sole 24 ore. L'emergenza coronavirus spinge il governo a raddoppiare le risorse per sostenere famiglie e imprese messe in difficoltà dal dilagare dell'epidemia. L'esecutivo ha deciso di stanziare 7,5 miliardi contro i 3,6 previsti inizialmente. Non sarà un salto nel buio, assicura il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Il governo ha già inviato infatti una lettera a Bruxelles per chiedere il via libera a sforare l'obiettivo di deficit dello 0,35%, passando così dal 2,2 fissato in autunno al 2,5%. Una richiesta giustificata con gli eventi eccezionali che il paese sta vivendo in queste settimane. Non serve subito una risposta, fa sapere Bruxelles all'esecutivo, che è già al lavoro su un nuovo decreto. Provvedimento che, spiega Conte, terrà in considerazione anche i suggerimenti dell'opposizione. Il decreto stanzierà fondi per irrobustire gli ammortizzatori sociali, con la cassa integrazione in deroga da estendere anche alle piccole e medie imprese fuori dalla zona rossa. Prevista poi una moratoria dei crediti alle imprese da parte del sistema bancario e aiuti alle famiglie con i figli a casa per le scuole chiuse. La sanità potrà contare su un miliardo in più e arriveranno fondi anche per la protezione civile e le forze dell'ordine. Il decreto sarà varato la prossima settimana dopo il voto del Parlamento sullo sforamento del deficit. Voto atteso mercoledì e che il ministro dell'economia, Roberto Gualtieri, spera di raggiungere con un sostegno molto largo. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ovviamente continua anche il dibattito politico, ma prima vediamo un aggiornamento sulla situazione sia in Italia che nel mondo. Arriva anche in Vaticano il Covid-19. Il primo caso di positività è stato infatti riscontrato presso i servizi ambulatoriali della direzione sanità e igiene, che sono stati sospesi per sanificazione. Allo studio in Vaticano anche le modalità per proseguire gli appuntamenti del pontefice. La prima novità potrebbe arrivare con l'Angelus di domenica, che potrebbe essere trasmesso in video, così come l'udienza del mercoledì. Intanto in Italia continua l'emergenza. 3.296 positivi, 148 vittime, 414 guariti. L'ultimo bollettino della Protezione Civile diffuso ieri sera e non esclusa una proroga della chiusura delle scuole fino al 3 aprile. In Toscana contagiata una bimba di 45 giorni, una maestra aretina risultata positiva e ad Arezzo 112 alunni sono stati messi in isolamento domiciliare. Situazione critica anche a Torino, dove la procura ha aperto un'inchiesta sul contagio alle Molinette partito da una coppia di anziani. Risultati positivi, ricoverati per influenza, non avevano detto che il figlio lavora a Lodi e si sta organizzando ordinando la chiusura del reparto. Mentre nel porto di Napoli una nave proveniente da Genova è stata bloccata con a bordo 9 membri dell'equipaggio che manifestano sintomi riconducibili al coronavirus. Alessandra Schepisi, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. È in viaggio verso la Malesia, la Costa Fortuna, la nave da crociera alla quale le autorità thailandesi hanno vietato l'attracco nell'isola di Phuket per i timori legati alla diffusione del Covid-19. Il comandante ha fatto sapere che sono tutti in buone condizioni i 64 italiani a bordo. Negli Stati Uniti un'altra nave da crociera, la Grand Princess, è stata bloccata al largo di San Francisco per consentire dei controlli su alcuni passeggeri che hanno manifestato sintomi riconducibili al virus. A livello mondiale il numero dei contagiati ha superato quota 98.700, la gran parte in Cina. I paesi coinvolti sono 91. In Iran, quarto paese per diffusione del virus, il numero delle vittime è salito a 124. In Germania, dove si sarebbe sviluppato il primo focolaio europeo, i casi accertati sono saliti a 545, in Francia a 423. In Olanda si registra la prima vittima, un 86enne ricoverato a Rotterdam. In Medio Oriente, infine, il presidente palestinese Abu Mazen oggi ha proclamato lo stato di emergenza in Cisgiordania dopo i due casi di coronavirus individuati ieri a Betlemme. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ci sono notizie praticamente ogni minuto e una uscita poco fa a proposito di crociere riguarda l'Egitto. Le autorità egiziane hanno annunciato di aver individuato 12 casi di coronavirus tra le persone a bordo di una delle navi che effettuano crociere sul Nilo. E a proposito di crociere, tra poco avremo con noi il direttore generale di Costa Crociere per fare il punto sulla nave di cui abbiamo appena parlato. Questo invece è lo stato del dibattito politico. I toni si abbassano, ma le divergenze restano. L'appello all'unità del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella produce risultati soltanto a metà. Il governo è impegnato sul decreto, mentre all'estero Luigi Di Maio cerca di combattere il boicottaggio contro l'Italia. Così il ministro degli Esteri. Da tutte le parti del mondo stiamo ricevendo alcune segnalazioni da aziende, perché ci sono dei paesi che chiedono il bollino virus free su prodotti made in Italy e questo è inaccettabile. Si attende il voto sullo scostamento del bilancio, per il quale occorre la maggioranza assoluta, quindi anche l'opposizione. Troppo pochi i fondi, dice Matteo Salvini della Lega, che protesta anche per il mancato avviso sul referendum. Il rinviare una data di un referendum popolare, quantomeno un colpo di telefono per buona educazione, l'avrebbe richiesto. Noi leggiamo di questi 7 miliardi, tutte le categorie economiche che stiamo ascoltando ci dicono che 7 miliardi servono per una settimana. 7 miliardi e meno di quanto spendiamo per il reddito di cittadinanza, fa eco Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia. L'Europa deve fare il suo lavoro, finora non è esistita. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Chiudiamo questa pagina alle 13:10. Adesso la cronaca dell'Italia. Una vasta operazione antidroga è stata messa a segno dai carabinieri del comando di Arezzo. Siamo in Toscana, ovviamente 22 persone, molti sono romeni e albanesi, sono state arrestate e sono state effettuate numerose perquisizioni nelle province di Arezzo, Firenze, Perugia, Brescia, Trento e Verbania. Rinvenuti e sequestrati ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti e una piantagione di cannabis per la produzione di marijuana in Spagna. Andiamo all'estero. Un uomo a bordo di una moto si è fatto esplodere a Tunisi davanti ad una banca vicino ad un checkpoint nei pressi dell'ambasciata statunitense in Tunisia. L'attentato ha avuto luogo intorno alle 11:20 di questa mattina e non si registrano al momento altre vittime oltre all'attentatore. Prosegue invece la serie di attentati in Afghanistan. Sentiamo i particolari in questo servizio. Almeno 27 persone sono morte in seguito all'attacco questa mattina a Kabul durante la cerimonia di commemorazione per la morte 25 anni fa del leader della minoranza Hazara Abdullah Limazari. I feriti sono almeno 18. I talebani hanno immediatamente negato di aver organizzato l'attacco, il primo nella capitale dopo la firma dell'accordo con gli Stati Uniti. Solo ieri almeno 20 tra soldati e agenti di polizia afghani erano morti in una serie di attacchi lanciati proprio dai talebani. Questo mentre la Camera d'Appello della Corte Penale Internazionale, con sede all'Aia, ha autorizzato l'apertura di un'inchiesta per presunti crimini di guerra commessi in Afghanistan dal 1 maggio 2003. L'inchiesta potrebbe anche coinvolgere le truppe americane. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. I giudici dell'alta corte britannica hanno condannato Mohammed bin Rashid Al Maktoum, è il potente ricchissimo emiro di Dubai. Lo hanno condannato nella causa di divorzio sull'affidamento familiare intentata 8 mesi fa contro di lui dall'ormai ex moglie, la principessa Haya di Giordania, fuggita dagli Emirati per rifugiarsi a Londra. Sentiamo il riassunto di questa storia nel servizio di Giorgia Scaturro. Questo video potrebbe essere l'ultimo. In un messaggio accorato, la fuggitiva Latifa, figlia dell'emiro di Dubai, denunciava le costanti torture subite dal padre prima di essere braccata sulle coste dell'Oceano Indiano e riportata a Dubai, dove è sedata in segregazione. Ad intervenire sul caso è ora l'Alta Corte di Londra, che si è pronunciata contro il potente sceicco Mohammed bin Rashid Al Maktoum, accusandolo di aver orchestrato il rapimento di Latifa e dell'altra figlia, Shamsa, catturata dai suoi agenti per le strade di Cambridge nel 2000 e anche lei ridotta in prigionia. Rapimento, torture e intimidazioni. La Corte britannica ha pubblicato per intero i fatti al centro della causa legale che è stata intentata dalla sesta moglie dello sceicco, la principessa di Giordania Haya bin Al Hussein, che dall'aprile scorso ha trovato rifugio a Londra, insieme ai 2 figli di 7 e 11 anni, dopo essere stata vittima di pesanti intimidazioni. Assistita dai legali che hanno curato il divorzio di Carlo e Diana, l'ex campionessa olimpionica di equitazione si sta battendo ora per sottrarre i figli all'emiro, per salvarli dalla pratica di matrimoni forzati e dalla privazione della libertà personale. Giorgia Scaturro, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Londra. L'Alabama, negli Stati Uniti, ha eseguito la condanna a morte con iniezione letale di Nathaniel Woods, 43 anni, condannato alla pena capitale per l'uccisione di 3 agenti nel 2004. La governatrice dello Stato, Ivey, si è rifiutata di fermare l'esecuzione e la Corte Suprema ha negato la sospensione dopo uno stop temporaneo. Anche molti personaggi pubblici si erano uniti alla mobilitazione civile per impedire la condanna a morte. Parliamo adesso dei nuovi scontri al confine fra Turchia e Grecia, dove continuano ad essere accampati migliaia di migranti che cercano di entrare nell'Unione Europea. Intanto regge, almeno per il momento, la tregua a Idlib in Siria dopo l'intesa raggiunta ieri fra Erdogan e Putin. Gas lacrimogeni e getti di cannoni ad acqua da una parte e pietre dall'altra. È guerriglia ormai a Castaniesa, il confine tra Grecia e Turchia, con la polizia di frontiera di Atene che spara gas lacrimogeni e getti di cannoni ad acqua contro gruppi di persone che cercano di oltrepassare la frontiera, mentre gli agenti turchi hanno risposto con lacrimogeni lanciati verso il lato greco. I migranti hanno risposto ai respingimenti con lanci di pietre. Fonti governative greche accusano la Turchia di aver compiuto attacchi coordinati per aiutare i migranti ad attraversare la recinzione sulla linea di confine. Atene denuncia inoltre che Ankara avrebbe fornito ai profughi utensili per tagliare e danneggiare la recinzione. Il presidente della Croce Rossa Internazionale, Francesco Rocca, è oggi a Lesbo e ieri era proprio a Castaniès. A una decina di metri dietro del filo spinato vi erano centinaia di persone ammassate, donne e bambini, che mi risuonavano in mente le parole della presidente della Commissione Europea, che ha parlato di scudo. Ho trovato quelle parole inappropriate. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Adesso 2 notizie che riguardano l'ambiente, una cattiva, l'altra potenzialmente buona. Allora partiamo dall'Australia. Le temperature record della superficie marina in gran parte della grande barriera corallina che si estende per 2300 km al largo della costa nord-est dell'Australia hanno aggravato il rischio che lo sbiancamento dei coralli già attivo possa svilupparsi in un altro evento pari a quelli gravi del 2016-2017. L'ufficio meteorologico australiano ha comunicato oggi che le temperature registrate in febbraio nell'area della barriera corallina sono state di 2-3 gradi sopra la norma. Ed è stato firmato oggi a Bruxelles il patto europeo sulla plastica che punta a realizzare imballaggi e prodotti monouso in plastica in modo che siano riutilizzabili e riciclabili. Punta anche a ridurre i prodotti e gli imballaggi in plastica vergine di almeno il 20%, ad aumentare la capacità di raccolta, selezione e riciclaggio del 25% e arrivare al 30% di materie plastiche riciclate per azienda. Tutto entro il 2025. Questo patto è stato firmato da circa 90 soggetti tra governi, imprese, industria del riciclo e organizzazioni di settore. La partecipazione a questo atto, a questo patto è volontaria, c'è anche la firma del governo italiano. Adesso per noi c'è una breve pausa, Effetto Giorno torna tra poco. perfetto giorno. Queste le notizie principali. In tutto il mondo si preparano misure economiche per aiutare l'economia colpita dall'epidemia. Il governo italiano porta le risorse a 7,5 miliardi per la Commissione europea. Non serve una risposta immediata allo sforamento del deficit. Cresce in tutta Europa il numero dei contagiati da coronavirus. Una nave da crociera con 64 italiani respinta in Thailandia, ma a bordo stanno tutti bene. Di nuovo un attentato in Afghanistan, decine i morti in una cerimonia a Kabul, attacco suicida anche vicino all'ambasciata americana a Tunisi. Il ciclismo italiano rinvia la Tirreno Adriatico e la Milano-Sanremo, il calcio tenta il ritorno alla normalità. Abbiamo parlato poco fa anche nei nostri titoli di questa nave dove ci sono 64 italiani, tra l'altro è una nave italiana della compagnia Costa Crociera. Allora, per tutti gli ultimi aggiornamenti, per sapere qual è la situazione, è con noi Neil Palomba, direttore generale di Costa Crociere. Buongiorno. Sì, buongiorno, grazie a tutti. Quali sono gli ultimi aggiornamenti che voi avete delle vostre navi e in modo particolare di una nave che si trova in navigazione vicino alla Thailandia? Ma quello che posso dire è una situazione in continua evoluzione. Noi siamo in costante contatto con tutte le autorità, ovviamente italiane, con le quali abbiamo anche instaurato dei tavoli di lavoro, e con quelle internazionali. E essendo una situazione fluida, ovviamente in continuo aggiornamento, noi siamo attivi con il nostro centro operativo di crisi 24 ore su 24, 7 giorni su 7, con l'obiettivo e la nostra priorità di salvaguardare la sicurezza e la salute di tutti i nostri ospiti e di tutti i nostri dipendenti, sia di bordo che di terra. Nel caso specifico della Costa Fortuna non è assolutamente vero che ci sono dei casi positivi, né tantomeno sospetti a bordo della nave. La nave è arrivata stamattina a Phuket dopo aver ricevuto la preautorizzazione ad entrare in porto nella giornata di ieri. All'arrivo però le autorità hanno cambiato idea e non hanno più dato la clearance, ma senza alcun motivo, e ci tengo a sottolineare, non abbiamo nessun caso né positivo né tantomeno sospetto a bordo di Costa Fortuna. La nave adesso è ripartita da Phuket alla volta della Malesia. Quindi lei ci sta dicendo che anche in questo caso c'è forse una eccessiva preoccupazione delle autorità di quel porto? Sì, diciamo che noi stiamo riscontrando in diversi paesi, in diverse regioni del mondo, delle eccessive precauzioni, nonostante tutte le precauzioni che noi stessi ci siamo autoimposti nel salvaguardare la salute dei nostri ospiti. Infatti tutti coloro che salgono sulle nostre navi devono affrontare uno screening, devono compilare un preimbarco, gli viene misurata la temperatura, e tutti coloro che provengono dalle aree a rischio non potranno salire a bordo. A parte questi problemi, che comunque mi sembra di capire sono problemi risolvibili cambiando rotta anche all'ultimo momento, tutte le vostre navi in giro per il mondo, sia che stiamo parlando di Asia, sia che stiamo parlando di Mediterraneo o Caraibi o altre zone, stanno navigando in maniera regolare o ci sono dei problemi, navi ferme o altri tipi di problemi? No, noi abbiamo solo le nostre quattro navi in Cina che sono state fermate già lo scorso gennaio, a parte le quattro navi che sono destinate al mercato cinese e quindi non vendute in Europa, tutte le altre nostre navi stanno operando regolarmente, con ovviamente dei disagi che ci rendiamo conto ci sono, sia nei confronti degli ospiti sia nei confronti dei nostri colleghi di bordo, a causa dei continui cambi di itinerario o magari delle regole che ci vengono dati all'ultimo minuto dalle autorità locali, ma questo purtroppo noi stiamo cercando di gestirlo nel migliore dei modi. Ci scusiamo già in anticipo con tutti i nostri ospiti per gli eventuali disagi che andranno ad incontrare. Avete ricevuto delle disdette, gran numero di disdette per queste crociere ultime che sono partite o le prossime imminenti? Ma sicuramente c'è un clima molto, molto teso e ci sta preoccupazione. Quello che noi dobbiamo portare avanti come messaggio è un messaggio che le garanzie e le rassicurazioni che ci sono state date dalle nostre amministrazioni, dai nostri governi e dalla stessa nostra azienda sono state implementate per tutelare la sicurezza di tutti. Dobbiamo guardare avanti, questa è una situazione sicuramente di emergenza che richiede la massima attenzione. Noi siamo sul pezzo per affrontare il problema e ci auguriamo che la crisi si risolva nel più breve tempo possibile. Certo, questo ce lo auguriamo tutti, quindi voi continuate ad operare regolarmente e non applicate nessun tipo di restrizione per quanto riguarda i passeggeri italiani o altri passeggeri provenienti da altri paesi? Assolutamente sì, noi prima dell'imbarco noi applichiamo delle restrizioni per tutti i passeggeri che provengono dalle aree a rischio asiatiche e che provengono dagli 11 comuni italiani che sono stati identificati come zona rossa. Quindi quelli tutti non li imbarcate quelli? Non li imbarchiamo. Sono stati contattati in anticipo e non li, diciamo, gli abbiamo vietato l'imbarco. Poi tutti i passeggeri, tutti gli ospiti, a prescindere dalla nazionalità, vengono screenati all'imbarco con un controllo della temperatura. Se la temperatura corporea supera i 37,8 gradi centigradi, a queste persone non viene data la possibilità di imbarcare a bordo. Palumba, grazie per essere stato con noi. Vedremo quale sarà l'evoluzione della situazione anche per quanto riguarda il vostro settore, che ovviamente come tanti altri nel settore turistico immagino non solo soffra oggi ma soffrirà nelle prossime settimane se non mesi. Ma sicuramente noi dobbiamo guardare avanti, dobbiamo guardare con ottimismo, noi stiamo mettendo in discussione un po' quella che è la libertà, che è una delle fondamenta della nostra cultura. Noi dobbiamo sentirci liberi di continuare a vivere la nostra vita con le giuste precauzioni, che sono precauzioni importantissime in questo momento storico. Grazie, buon lavoro, a presto. Grazie, arrivederci. Siamo ormai alla seconda settimana di restrizioni e di zona rossa. Ai diari della quarantena è dedicato il reportage di domani mattina dopo il GR delle 8. A firmarlo questa settimana è Raffaella Calandra. Ecco una breve anticipazione. C'è chi ha descritto il silenzio della città e chi ha voluto documentare il vuoto di giornate all'improvviso troppo lunghe. Qualcuno si è fatto carico di condividere informazioni pratiche e qualcun altro di portare la discoteca nelle stanze dei ragazzi. Voci e immagini dalla zona rossa che superano i checkpoint dell'Odigiano per diventare diari dalla quarantena. Cercando di raggiungere in bicicletta il cosiddetto confine. Adesso anche per le strade vedete veramente nessuno. Ci guardiamo qualche film, leggiamo qualche libro. Di questi giorni senza abbracci sono i più anziani a soffrire, quelli a cui mancano le visite dei nipoti, quelli che per chiacchierare ora chiamano in diretta su Radio Zona Rossa, ci racconta il presidente Massimo Scaglioni. Persone magari sole che chiamano per fare una chiacchierata con qualcuno. Poi ovviamente ci sono per le esigenze i supermercati chiusi, le farmacie, la distribuzione delle mascherine. Col passare del tempo sempre più alle preoccupazioni sanitarie si aggiungono quelle economiche, di imprenditori che chiedono di poter di nuovo lavorare. Ho voluto iniziare a lavorare, ho tanto bisogno di lavorare, per noi è un grosso danno economico anche. E nella dimensione sospesa di giornate senza impegni, piena invece di fantasmi e di amuchina, i diari aiutano ad attraversare i giorni dell'isolamento nella speranza che diventino presto solo materiale per documentare di tempi passati. Questo dunque l'anticipazione del reportage in onda domani mattina dopo il giornale radio delle 8. Tra poco parleremo di siccità, prima però una breve pausa con anche gli aggiornamenti dalla borsa. Effetto giorno. Mancano pochi secondi alle 13.33 minuti, una buona giornata da Enrico Paglierini, queste le notizie di Effetto Giorno. In tutto il mondo si preparano misure economiche per aiutare l'economia colpita dall'epidemia, il governo italiano porta le risorse a 7,5 miliardi, per la Commissione europea non serve una risposta immediata allo sforamento del deficit. Cresce in tutta Europa il numero dei contagiati da coronavirus su una nave da crociera con 64 italiani respinta in Thailandia, ma a bordo, fa sapere il capitano, stanno tutti bene. Di nuovo un attentato in Afghanistan, decine i morti ad una cerimonia a Kabul, attacco suicida anche vicino all'ambasciata americana a Tunisi. Il ciclismo italiano rinvia la Tirreno Adriatico e la Milano-Sanremo, il calcio tenta il ritorno alla normalità. Adesso ci occupiamo di siccità. Saluto Meuccio Berselli, che è il segretario generale dell'autorità di bacino del fiume Po. Benvenuto, buongiorno. Buongiorno a lei, buongiorno agli ascoltatori. E alcuni ascoltatori potrebbero domandarsi: ma come, ci occupiamo di siccità che è appena venuto a piovere? Voi avete convocato e questa mattina si è tenuto a una riunione dell'osservatorio siccità, è venuto a piovere, quindi nessun allarme? No, nessun allarme, ma la situazione dello scenario attuale è uno scenario di severità bassa, con precipitazioni come giustamente ha già anticipato lei. Però il mese di febbraio, i mesi scorsi, nel bacino del Po, nel distretto del Po, c'è stata una scarsa precipitazione e soprattutto abbiamo potuto vedere che c'è stato anche un aumento delle temperature. Rispetto alle temperature medie siamo in una situazione diversa, con il cambiamento climatico che ci induce a fare delle nuove riflessioni. Aggiungo anche che lo scenario, la tendenza dello scenario vede, dopo il passaggio di questa piena, di questa morbida, insomma di questo passaggio della perturbazione, alcune settimane in cui non ci saranno eventi meteorici significativi e quindi ci sarà un apporto di piogge e quindi di acqua basso. Quindi approfittando del fatto che ci avviciniamo al periodo peggiore per quanto riguarda le risorse idriche, perché avremo bisogno di molta acqua per gli usi irrigui, le ricordo che noi deriviamo 20 miliardi di metri cubi all'anno dal fiume Po e facciamo oltre il 35% dell'agricoltura nazionale, quindi di acqua ce n'è bisogno. Ci vogliamo preparare con l'osservatorio a tutti gli scenari e infatti abbiamo indicato per l'8 di aprile il nuovo osservatorio e la tendenza bassa dello scenario di severità idrica, però in assenza di precipitazioni. Quindi nessun allarme, però la preoccupazione rimane. Che cosa avete deciso in sostanza, se avete preso decisioni? Certo, le azioni sono intanto conoscere con i monitoraggi tutta la quantità di acqua che si può invasare nelle grandi dighe alpine e negli invasi e poi di provvedere da subito a portare la misura del lago maggiore nello zero idrometrico di Sesto Calende da 1,00 a 1,35. 35 centimetri di acqua in più nel lago maggiore corrispondono a circa 85 milioni di metri cubi di acqua che possono essere prelevati, quindi fatti scorrere nel Ticino e fatti arrivare nel Po, per evitare che ci possa essere una diminuzione nel Po significativa e quindi evitare una difficoltà nell'habitat, soprattutto nel delta, con l'intrusione del cuneo salino. Tutte queste azioni vanno fatte già d'ora per evitare di farci trovare impreparati quando di acqua ne avremo veramente bisogno. Certo, e questa operazione che lei ci ha descritto, cioè dell'innalzamento del lago maggiore, è possibile senza problemi? Cioè di acqua che scende, che va nel lago, ce n'è, non ci sono problemi? Sì, perché in questo momento abbiamo una situazione di accumulo nevoso che corrisponde in media, alla media del periodo e quindi il fatto di poter trattenere dalla diga della Miorina, che è a valle, quindi che dà l'acqua al Ticino, la possibilità di innalzare di regolare il grande lago fino a 1,35 ci consente di accumulare acqua. Devo dire che invece nell'osservatorio di oggi si è manifestata una crisi che c'è già ed è presente, che è quella dell'arco appenninico, quindi soprattutto la regione Emilia-Romagna, perché è una regione in cui non ci sono grandi invasi e grandi dighe e l'Appennino non ha avuto la copertura, non ci sarà un contributo della neve e quindi se non pioverà nei mesi prossimi la parte appenninica e la parte emiliano-romagnola sarà sottoposta a maggiori stress rispetto all'altro, diciamo, bacino. Certo, questo sicuramente è un problema. Grazie a Meuccio Berselli, segretario generale dell'autorità di bacino del fiume Po. A presto, buon lavoro. Grazie a lei, grazie agli ascoltatori. Buongiorno. Adesso il punto con Alberto Orioli, vice direttore del Sole 24 Ore. Il punto di Alberto Orioli. L'indice anticipatore dell'Istat prevede una forte debolezza per l'economia nella prima parte dell'anno e la notizia purtroppo è che ancora non tiene conto dell'effetto coronavirus. Il sondaggio che invece ha fatto il Centro Studi Confindustria su oltre 4.000 aziende associate ne tiene conto e come, e dimostra una cosa chiara, che l'epidemia ha gelato l'economia. È un ritratto drammatico dell'Italia, il 65% delle imprese ha avvertito un effetto forte sulla produzione, in Lombardia e Veneto il dato sale al 70% e se si guarda i settori si vede che per l'alberghiero il danno è per il 98% delle imprese, nei trasporti per l'82%. Si potrebbe continuare con il tragico rosario dei numeri, ma ci fermiamo qui. La risposta del governo è adeguata per la gestione della fase di pronto soccorso, poi servirà un piano ambizioso di misure anticicliche che guardino al medio periodo e possano rilanciare il PIL, l'occupazione, i redditi in questa Italia di fatto in recessione. È singolare però vedere come ci sia ancora chi trovi il coraggio di rilanciare la teoria della decrescita felice come utile portato della devastazione virale e magari arrivi anche a lodare un positivo arretramento della turistizzazione delle città d'arte. Incredibili snobismi quando l'economia del paese precipita, nuovi Neroni che suonano la cetra intanto Roma brucia. Abbiamo una notizia dell'ultima ora, una notizia che arriva da Roma, ha le stesse caratteristiche degli altri tre plichi esplosivi recapitati nella capitale nei giorni scorsi. La busta arrivata ieri mattina in un appartamento in zona Baldo degli Ubaldi, nel quartiere Boccea, e quanto si apprende, si è appreso poco fa da fonti inquirenti dopo le prime verifiche effettuate sul plico dai carabinieri, e questo effettivamente è un problema. Adesso un'altra crisi, ci occupiamo invece della crisi dell'offshore. Saluto il nostro ospite collegato da Ravenna, Franco Nanni, presidente dell'Associazione Ravennate degli Operatori nell'Offshore Petrolifero. Buongiorno, benvenuto. Buongiorno a voi, buongiorno agli telespettatori. Avete chiesto al prefetto l'apertura di un tavolo di crisi locale, per quale motivo? Sì, abbiamo avuto lunedì scorso un tavolo di crisi, che avevamo chiesto sia noi che il sindaco, per la situazione che è molto critica nel settore dell'offshore. Noi abbiamo avuto già l'anno scorso l'interruzione di tutte le attività per via dell'articolo 11 del decreto legge del 14-12-18. Cioè la famosa legge contro le trivelle, esatto, giusto? Esatto, sì, chiamiamola la legge no triv. Perché hanno prorogato tutte quante le attività per 18 mesi, hanno sospeso per 18 mesi, e la settimana scorsa abbiamo visto che è stata una proroga di 6 ulteriori mesi, quindi erano già 18 mesi più 6 della proroga, poi 6 mesi poi che ci sono per le proroghe normali, sono 2 anni e passa che non ci sarebbero più attività. Senta, questa crisi riguarda quanti lavoratori e quante aziende? Ma noi nella nostra associazione abbiamo una 50 di aziende, i lavoratori oggi come oggi sono circa 6.000, però per fare un distinguo lavorano quasi esclusivamente per commesse all'estero, per commesse in Italia ce ne sono ben poche. Quindi parte di questi 6.000 lavorano all'estero e continuano a lavorare? Sì, no, però c'è da dire questo, che i lavori all'estero, oggi noi abbiamo il 44% del personale che lavora all'estero delle nostre aziende che deve essere assunto in loco, perché ci sono delle imposizioni che la manodopera deve essere locale. Quindi noi stiamo vivendo una perdita di manodopera, di persone, e molte aziende chiudono. Noi negli ultimi 2 anni abbiamo avuto 5 procedure concorsuali, 4 fallimenti e un'amministrazione controllata. Chiarissimo. Abbiamo... Senta Nanni, se io traduco dicendo noi vietiamo la trivellazione per estrarre il gas, ma continuiamo a bruciare gas per vari utilizzi acquistandolo dall'estero, la crisi nasce da qui, giusto? Sì. Perfetto. Sì, l'assurdo è proprio quello. Sì, è assolutamente assurdo, ma sul Sole 24 Ore l'abbiamo fatto notare più volte e oggi volevamo ribadire questa assurdità. La ringraziamo, ci aggiorneremo insomma nelle prossime settimane, se mai ci fosse un ripensamento, anche vista la situazione del periodo. Grazie a Franco Nanni, buongiorno e buon lavoro. A presto. Le 13:43 minuti, a fianco a me, vicino a me, c'è il nostro esperto di sport, Giovanni Capuano. Ciao Giovanni, benvenuto. A fianco ma a più di un metro di distanza. Sì, a più di un metro di distanza, esattamente. C'è anche Giulia Crivelli pronta per poi uno sguardo sul mondo. Prima però vorrei partire, a proposito di sport, dal ciclismo, perché abbiamo una notizia che abbiamo messo anche nei titoli delle ultime ore. Sì, una notizia che purtroppo era nell'aria, nel senso che si stava lavorando per cercare di evitare che si arrivasse alla cancellazione. Questa mattina però c'è stata la cancellazione, o meglio, la formula è quella del rinvio a data da destinarsi. Si cercherà di riposizionare poi nel calendario ciclistico di questa stagione la Tirreno Adriatico, che era in previsione dall'11 al 17 marzo, e soprattutto la Milano-Sanremo, che era in programma sabato 21 marzo. Milano-Sanremo, che è la classicissima di primavera, è la prima grande classica che apre la stagione del ciclismo. È un po' come se il tennis cancellasse Wimbledon, per intenderci. Quindi è una cosa importante. Quindi è una cosa molto importante e soprattutto altamente simbolica, perché, ripeto, cancellare la Milano-Sanremo significa rinunciare, o almeno posticipare data da destinarsi, uno dei monumenti dell'attività ciclistica della stagione. Ma del resto l'emergenza coronavirus sta impattando in maniera molto forte sul mondo dello sport. Noi abbiamo capito in queste ore, al di là delle rassicurazioni ufficiali, che non ci sono tabù su discorsi che riguardano l'europeo del 2020, ad esempio, che dovrebbe cominciare a Roma il 12 giugno. Non ci sono tabù, il discorso è aperto sulle Olimpiadi di Tokyo, e quindi dobbiamo abituarci anche a cancellazioni dolorose come questa. Mentre raccontiamo anche dello sport che si sta giocando a Cagliari in questi minuti, Coppa Davis, Italia contro Corea del Sud, in un clima definito spettrale da chi è dei pochissimi testimoni oculari presenti, però si sta giocando, e l'Italia ha vinto il primo singolare 6-0-6-3 con Fognini, 1:05, in corso il secondo, domani il doppio, e poi l'impressione che se l'Italia dovesse vincere 3-0 manderanno tutti a casa. Grazie Giovanni, come sempre bravo, preciso, sintetico. Tra poco con tutti i convocati dopo le notizie delle 14. Ciao, a presto, buon lavoro. Le 13:45, tra poco effetto mondo, adesso la viabilità.